Radio 24 Reportage. Ritorno a Mogadiscio di Ugo Borga con Loredana Taglieri. Welcome to Mogadiscio, ladies and gentlemen. For your safety and comfort, please remain seated until the aircraft. Adesso una coltre di vapori bollenti ricopre come un sudario le capanne di rami intrecciati. Mogadiscio è un'immensa, indecifrabile distesa di glu colorati tra le orbite vuote dei palazzi martoriati dai combattimenti. Per assistere al risveglio dei sopravvissuti di questa carestia ci siamo messi in strada molto presto. Arriviamo al campo rifugiati alle 6 del mattino. Nella luce livida dell'alba, centinaia di migliaia di fantasmi emergono dalle macerie per mettersi in fila. Un po' d'acqua, una manciata di riso, poi tornano a nascondersi dai proiettili vaganti e dal sole. Da quando le milizie di Al-Shabaab, l'organizzazione fondamentalista affiliata ad Al-Qaeda, sono state respinte, i combattimenti si sono concentrati nei quartieri a nord e a ovest, ad Afgoya e a Jowar. Le forze ugandesi e burundesi dell'Unione Africana, supportate dalle milizie del TFG, difendono ogni giorno i confini della città sotto assedio. I tre quarti del territorio restano nelle mani dei fondamentalisti, che sono stati chiari, fuori tutti, cooperanti, ONG, agenzie internazionali. Anche a Mogadiscio gli aiuti umanitari sono arrivati con il contagocce. Intervenire con mezzi adeguati è ancora troppo pericoloso, così, nonostante 2 settimane fa la carestia sia stata dichiarata sconfitta, per i disperati del campo di Mogadiscio il cibo resta il problema principale. Fame, morte, violenza sono all'ordine del giorno. Benvenuti a Mogadiscio. Siamo ancora molto affamati qui, non c'è niente. Negli ultimi 2 mesi non abbiamo ricevuto aiuti né cibo. Abbiamo provato a raggiungere a piedi un villaggio vicino per cercare del cibo. Durante la marcia è morto il primo dei miei bambini, di 2 anni. Poi su un camion siamo riusciti a raggiungere un altro villaggio, dove un altro dei miei bambini, di 3 anni, è morto. Al primo checkpoint, gli uomini della mia scorta scendono dal pick-up e mi fanno cenno di proseguire. Loro non possono accompagnarmi. Cammino lungo una strada piena di miliziani pesantemente armati, occhiali da sole, mimetiche americane. Sui tetti, lungo tutto il perimetro, una decina di cecchini. Mi fermo davanti a un pesante cancello in metallo, difeso da 2 mitragliatrici circondate da sacchetti di sabbia. Si apre una feritoia. 2 occhi mi scrutano attentamente. Dopo un'accurata perquisizione, vengo introdotto in una sala accogliente. Ora puoi toglierti quel giubbotto antiproiettile. Non avere paura. Se hai paura di morire, non puoi lavorare in una città come questa. Ad accogliermi con queste parole in una casa bunker a 2 passi da Villa Somalia è Mohamud Nur, detto Tarzan, sindaco di Mogadiscio e nuovo leader carismatico della politica somala. Tornato da Londra per assumere nel dicembre del 2010 l'incarico di primo cittadino della città più pericolosa del mondo, ha promesso di ripulire Mogadiscio dalla corruzione e dallo strapotere delle bande armate dei warlords. Nur Mohamud gode di un ampio sostegno nonostante appartenga al piccolo clan Weyen, privo di milizie, ciò che rappresenta un elemento di novità nella storia recente del paese. Nei confronti degli italiani, colpevoli di aver abbandonato la Somalia al suo destino nel momento peggiore, non usa certo mezzi termini. Italiano, hai visto la chiesa? L'Italia e il Vaticano hanno potuto costruire senza limiti tutta l'area intorno alla chiesa. Tutti i quartieri circostanti sono italiani. Bar Novecento, Cinema Super, Cinema Centrale, Cinema Missioni, Cinema Hamar, Croce del Sud. Ora, se l'Italia non vuole occuparsi della sua eredità storica, ciò che farò è chiedere alla Turchia di demolire tutto e costruire strutture turche, eliminare tutta la storia italiana dal centro di Mogadiscio e aprirci alla cultura e alla storia turca. Hai visto la statua vicino alla chiesa? È italiana? La statua del figlio del re o qualcosa del genere. Ora, quello che faremo è distruggere quel monumento e costruire Erdogan. Il monumento è un italian monument. Brugge something. Re, il figlio del re, di something like that. So we will wipe out even that monument, we will destroy it and build Erdogan. Erdogan. Che i turchi stiano vincendo la partita nella recentissima corsa, disperata, alla conquista di una partnership economica con la Somalia, lo dimostra il fatto che sono gli unici a poter circolare liberamente in tutta Mogadiscio, senza scorta. Nessuno, spesso nemmeno gli stessi somali, gode di questo privilegio. I warlords Abgale e Abrgedir detengono ancora il potere militare a Mogadiscio e così pure il controllo della maggior parte delle attività criminali, dal traffico d'armi al grande affare degli aiuti umanitari, sottratti e poi rivenduti al mercato nero agli stessi rifugiati. Ma il business che tira, qui a Mogadiscio, è quello dei sequestri, soprattutto da quando è diventato più difficile per i pirati impossessarsi di mercantili e petroliere che ormai, nel Golfo di Aden, si trasformano in navi da guerra. Così che le parole del sindaco rappresentino o meno una provocazione, resta il fatto che per gli italiani circolare a Mogadiscio senza scorta è un vero suicidio, mentre la Turchia invia tecnici, ingegneri, insegnanti, costruisce scuole, ospedali e un nuovo aeroporto. Mogadiscio è la città più pericolosa del mondo, forse, ma non per tutti. All along that what we are fighting is not al-Shabaab, but what we are fighting is al-Qaeda. With all your resources. Quello che stiamo facendo in Somalia è combattere contro Al-Qaeda. Con tutte le risorse di cui disponete, dopo 11 anni di guerra in Afghanistan, non siete arrivati a nulla. Così, se considerate che in Somalia stiamo combattendo contro Al-Qaeda senza risorse, potete capire che anche quando conquistiamo delle posizioni, loro riescono a riprenderle perché non disponiamo di munizioni per difenderle. Abbiamo le mani legate da un embargo che ci impedisce di acquistare armi e munizioni, e tutto quello che sa fare la comunità internazionale è dirci combattete contro Al-Qaeda. No ammunition in their guns or their weapons, no ammunition there, so they have to come back the position that they have moved. Because international community impose us embargo, so we are tied our hand like that, and then they say fight against Al-Qaeda. Pochi minuti e mi ritrovo a rincorrere il sindaco di Mogadiscio che, abbandonata Villa Somalia, si lancia in una pazza corsa a piedi nelle vie della città, inseguito da un pugno di uomini di scorta, concedendosi un pericolosissimo bagno di folla. È in corso una manifestazione contro i fondamentalisti islamici di Al-Shabaab. Nella confusione perdo di vista i responsabili della mia sicurezza e resto solo, per pochi minuti, in mezzo a centinaia di persone. Per sopravvivere a Mogadiscio, si dice, l'unico modo è essere paranoici. Non faccio nessuna fatica a diventarlo e così all'improvviso in ogni sguardo, in ogni gesto, leggo un'intenzione omicida. Ma essere paranoici spesso non è sufficiente. Mogadiscio resta la città più pericolosa al mondo per un reporter. Negli ultimi 15 anni oltre 40 giornalisti sono stati assassinati in questa città. L'ultima vittima eccellente, poche settimane fa, si chiamava Hassan Osman Abdi, detto Fantastic, ed era il direttore di Radio Shabelle, un network che ha fatto dell'informazione libera ed indipendente il suo cavallo di battaglia. I suoi giornalisti, una ventina, vivono spesso segregati nella redazione, difesa da una decina di miliziani. Hassan è stato ucciso a pochi metri dalla nuova sede di Radio Shabelle da 5 uomini con il volto coperto. Gli hanno sparato in testa a bruciapelo, un'esecuzione. Hassan era uno dei più importanti giornalisti di Radio Shabelle. Era il direttore del network, ma lavorava spesso anche come reporter. Poco prima di morire, aveva ricevuto dei messaggi nei quali si diceva che sarebbe stato ucciso se non avesse interrotto le sue indagini giornalistiche. Hassan si stava occupando di corruzione all'interno del governo somalo. About the government of Somalia, and before he was killed, he has received messages threatened to be killed if not stop his work. La voce era di Omar, webmaster di Radio Shabelle. Mi assicura che insieme ai suoi colleghi continuerà a battere la stessa pista di Hassan, nonostante le minacce. Quel che è certo è che per lavorare a Mogadiscio, politici, giornalisti, funzionari possono contare solo sul proprio coraggio. Se vuoi vivere per sempre, questo non è il posto giusto, come mi ricorda il sindaco Mahmoud Nur quando ci salutiamo. I say I want to live forever and you block that everything you can get inside. When the death comes, it will come to you on your bed and then you will die slowly. No problem. Avete